Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Amici di Blu Radio Veneto, benvenuti alle nostre frequenze. Questa è Blu Time Live, la versione del martedì sera. Oggi 30 luglio del 2013. Sono le 21 e 13 minuti primi scattati in questo preciso istante. Io sono Flavio Bilato, insieme a me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Stasera nella fossa di leoni per antonomasia, veramente una grande fossa di leoni stasera. Assolutamente, spera di non essere sbranato. Esattamente. Quindi, fino alle 22:30 fammi sapere il tuo stato di salute da quella Bene. Parte. Benissimo. Allora, qualche tempo fa, devi sapere Maurizio, che parlando con un altro ospite che era venuto, che è qui presente anche lui questa sera, Alessandro Unfolk Monti, si parlava di un gruppo che aveva della musica progressiva in serbo ed ha avuto una spinta che ora non può più tornare indietro, per così dire. Dopo 30 anni della serie la faccio, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio, infine l'hanno fatto. Assolutamente, sono qui per dirci che hanno questo CD denso di meraviglie, e quindi diamo subito il benvenuto ai Quanah Parker. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco qua, li sentiamo a distanza perché siamo veramente invasi da strumenti musicali in questa serata, e Maurizio l'abbiamo collocato sulla gran cassa della batteria. Esattamente. Come stai là dentro? Benissimo, no? Benissimo. Assieme a noi c'è anche Vannuccio Zanella, col quale scambieremo qualche critica, impressione, critica, eccolo qua. Vannuccio. Allora, saluto anch'io, sì, qualche impressione, dai, qualche critica, magari la facciamo fuori onda. Ecco, Vannuccio è il grande maestro di cerimonie stasera, assolutamente. Assolutamente sì, quindi allora salutiamo Riccardo Scivales, tastiere, poi ancora Betty Montino alla voce, Giovanni Pirrotta, chitarre elettriche, Giuseppe Di Stefano al basso elettrico. Buonasera. E poi ancora Paolo Ongars, Ongaro alla batteria, in questo caso una batteria elettronica. Allora ragazzi, da dove cominciamo? Assolutamente dovete dirci il perché di questo nome così particolare, che prende come riferimento un capo indiano. Aug, avrei dovuto dirvi questa sera. Esattamente. Allora, Quanah Parker è stato un famoso capo pelle rossa, e il motivo della scelta è stata molto semplice: che avevo un libro su pelle rossa, c'era una foto di questo capo indiano, una foto molto intensa, uno sguardo molto magnetico, mi aveva molto colpito, e mi piaceva anche il nome, mi suonava bene, Quanah Parker, mi sembrava un nome buono per una band. E il terzo motivo è che, appunto, essendo un pelle rossa, poteva anche così, come dire, simboleggiare un po' la ribellione. Anche il gruppo era nato nei primi anni 80, periodo in cui la musica rock progressiva, appunto, era andata fuori di moda, e c'erano altri generi musicali, dal punk al new wave eccetera, che diciamo non mi piacevano molto. Pertanto la scelta anche di questo nome è un po' così, come dire, simboleggia questa ribellione a questo stato di cosa, quel tipo di musica che io non riuscivo a ascoltare dopo aver ascoltato i grandi gruppi prog, sì. Yes, Genesis, Emerson, Lake & Palmer eccetera, così. E quindi vi siete collocati in una riserva, si può dire, in no? Una riserva, sì. Esattamente. Però le cose poi alla fine hanno anche questo tipo di cose hanno anche i loro vantaggi, perché effettivamente col senno del poi noi siamo di fatto forse la prima band di neoprog italiana, cioè la musica progressiva poi nei primi anni 80, nell'85, con gruppi come Marillion eccetera, ha avuto una seconda ondata, un momento di revival, che poi è durato tuttora, c'è un'onda lunga, perché il prog, lo zoccolo è duro, insomma, c'è una zoccolo duro di ascoltatori, una musica che comunque ha un grande seguito, è una anche musica che conquista un po' alla volta, ma conquista sì poi. Esattamente. Quindi questo essermi situato in un momento un po' particolare, alla fine, insomma, passati gli anni, effettivamente potremmo dire di essere, possiamo dire, penso di essere uno dei primi gruppi neoprog, sono il primo italiano, insomma. Benissimo, allora facciamo capire già ai nostri ascoltatori di che musica stiamo parlando, facendo ascoltare subito il primo pezzo di Quana Parker, quest'album che si titola Quana, proprio come il vostro nome. E allora, la traccia numero 11 che ci andiamo ad ascoltare per primo, ricordiamo agli ascoltatori che sono 12 le tracce di questo disco e poi più tardi ricorderemo anche come entrarne in possesso. Quindi cominciamo con l'ascolto di questo The Limits of the Sky. Loro sono i Quana Parker. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. ci siamo ascoltati questo primo pezzo meraviglioso, The Limits of the Sky. Loro sono i Quana Parker, sono qui in diretta dai nostri studi a Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live per parlarci della loro musica. Abbiamo iniziato con Limits of the Sky, per l'appunto, che Riccardo, in una brevissima presentazione che mi ha fatto presentandomi i testi, diceva: questo è un testo ispirato dall'amico Alessandro Monti e che parla sul vero, sul valore vero dell'amicizia tra due persone. Riccardo, è così? Eh sì, esattamente così. Questo è un testo, tra l'altro, che appunto è stato scritto anche da Alessandro Monti, e proprio per la nostra amicizia, la nostra grande amicizia. E quindi uno dei temi dei quali è proprio quello dei rapporti anche personali, proprio fra le persone, e l'amicizia è un valore grandissimo secondo noi, è molto importante, e tutta la bellezza di questo è proprio nel bellissimo testo che è ispirato a Alessandro Monti. Alessandro Monti, ricordo, nella formazione originaria di Quana Parker dell'81-85, i principali componenti sicuramente erano Roberto Noè, chitarrista, Roberto Bronese, bassista, e Giuliano Bianco, batterista, e c'era anche Alessandro Monti, che per vari anni è stato anche la nostra voce solista e appunto ha ispirato vari testi anche del disco proprio Quana, insomma. Quana. Sì. Caro Vannuccio, visto che sei vicino a Flavio, questo è un pezzo dalle tante facce musicali, non soltanto prog è una delle tante facce. Cosa dici, Vannuccio? Beh, sai, il prog è già di per sé una musica dalle tante facce. Se poi ci aggiungiamo anche l'eclettismo di chi lo propone, ovviamente facciamo ancora più espandere, altro che limiti del cielo. Andiamo ben più in là. Ben più in là, esattamente. Per cui direi che loro ci sono perfettamente riusciti. Questo è un brano che piace molto anche a me. Primo perché ha una linea melodica molto bella, secondo me, che era poi uno dei fondamenti del prog, quello di avere una musica, se vogliamo, anche difficile sotto, ma una linea melodica molto precisa e molto accattivante. Tra l'altro, non so se posso aggiungere una cosa, certamente, è un brano, certo, che rappresenta perfettamente la continuità fra i vecchi Quana finiti nell'85 e i nuovi Quana rinati appunto nel 2006, e grazie anche a Giovanni, che è stata la prima persona, Giovanni Pirrotta, che ha voluto riprendere questi brani con me, eccetera. Perché la continuità? Perché questo era un brano che era rimasto come provino dei vecchi Quana Parker, e un provino per piano e voce che avevo fatto io appunto di Alessandro Monti, che saluto, che è qui in studio, sì. E dopo 25 anni è stato rielaborato, riarrangiato, è stato espanso anche da tutta la band, e sono molto felice appunto di questo risultato. Giovanni ci ha messo quel pezzo hendrixiano dentro, perché non doveva non metterlo, vero Giovanni? Sì. Mettiti davanti al microfono, per cortesia. Come si diceva prima, i nostri Quana Parker sono arrivati dotati anche di strumentazione musicale, tra poco li sentiremo in un brano appunto effettuato qui in studio, speriamo che il suono vada perfetto, così da far assaporare fino in fondo la musica di Quana Parker anche in versione live. No, Giovanni, se volevi rispondere alla domanda, sì, di Maurizio, era molto difficile. Non si fa a citare Hendrix? Deve citare Hendrix, assolutamente, quindi, si deve citare. Poi tra l'altro questo l'ho registrato con una Squier, una Stratocaster, però Squier giapponese dell'81, quelle famose quando gli americani vendevano ai giapponesi i legni buoni, e i giapponesi costruivano le chitarre meglio di loro. Ah, perfetto, si fa sempre così. Hanno fatto anche quei dischi così i giapponesi. Benissimo, sì. Allora Maurizio, vediamo di ascoltare subito un primo pezzo in versione acustica live qui in studio, all'interno appunto della programmazione di Blu Time Live. I Quana Parker con questo pezzo, sempre tratto dal loro lavoro che si intitola Quana, e questo è After the Rain a Blu Radio Veneto, i Quana Parker. Yeah. Blu Radio Veneto. Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. All'interno della programmazione di questo martedì 30 luglio abbiamo ospiti in studio i Quana Parker, sono venuti per presentarci il loro lavoro intitolato Quana e stiamo ascoltando già alcuni pezzi divisi tra il discorso acustico e la presentazione del CD. In questo caso abbiamo ascoltato un pezzo, si intitola After the Rain, After the Rain, che inizia su disco con un bel temporale, si può dire così, però questo rappresenta un po' l'unione dell'uomo con la natura, vero Riccardo? Sì, esattamente, questo è proprio uno di quei testi come Garden Wakes ad esempio, dei testi appunto del disco Quana, e anche questo ispirato da Alessandro Monti, un bellissimo testo, appunto parla della fusione che possiamo provare con la natura dopo che ha piovuto e possiamo camminare ad esempio, che ne so, a piedi nudi sull'erba, sentire l'odore della terra, la fragranza dell'erba, ed è una, mentre il cielo si rischiara, è una cosa meravigliosa, un'immagine molto bella, direi. Bisogna essere anche fortunati a essere in vacanza per vivere. Beh, quella... però certe volte è vero, sì. Questo è vero, però non è proprio necessario andare in vacanza, basterebbe avere un giardino vicino casa ad esempio, sì, sì, sì. O anche tante volte immaginare anche certe cose, secondo me è una cosa molto bella immaginare, quindi beh, chiudere gli occhi e immaginare, sì, trovo che sia, può essere bello anche questo. La voce di Betty non era immaginata, era potente. E Betty, secondo me, non so se Flavio è d'accordo, anche Vannuccio è d'accordo, dava un tocco canterburiano al pezzo, secondo me, all'inizio. Poi le cose sono cambiate. Ma all'inizio era molto canterburiano, un po' Soft Machine, un po' Caravan, a mio parere. Allora, questo è una cosa che di Quana Parker, diciamo, i pezzi di Quana Parker sono scritti quasi tutti da me, qualcuno da Roberto Noè o insieme. E, negli anni Ottanta, appunto, ci dicevano che bravo, hai fatto le cose canterburiane perché poche le facevano. In realtà devo dirti la verità, io non amo il canterbury. No, non è che non lo amo, l'ho ascoltato pochissimo perché sono più legato all'IS, al banco e a altre cose, no? Però avendo io un background anche un po' di studio jazzistico e usando quindi determinate armonie che vengono usate spesso da canterbury anche, quindi si ritrovano sicuramente nei Quana Parker, ma non perché avessi ascoltato prima Canterbury. E la cosa curiosa è proprio questa, viene proprio come diceva Vannuccio prima, siccome il prog è una musica di apertura, di contaminazione eccetera, viene da un versante legato all'armonia jazzistica, né più né meno. Ma è bello essere canterburiano in ogni caso. Ma non niente di male, ci sono dei grandissimi. Cosa dici Vannuccio? A me piace il Canterbury. Volevo semplicemente dire, a me per esempio la voce di Bay ti ricorda molto Linda Hoyle. Ecco sì, giusto, giusto. Anche perché qui ho usato un inconsciamente una procedura che usano spesso i gruppi di Canterbury, che è raddoppiare la voce col pianoforte, cioè di solito la melodia della cantante non va raddoppiata dal pianoforte quando l'accompagna, però avevo notato anche che i gruppi di Canterbury la facevano questa cosa, specialmente col piano elettrico. Non solo, ma adesso io l'ho ascoltata soprattutto qui dal vivo, fai chiudere le frasi musicali dal basso. È vero, qui sì, c'era ancora di Giuseppe qui di fronte, che era un classico però giuro non era una cosa mutuata voluta. Come non volevo copiare Canterbury, che peraltro ascoltavo pochissimo o anche no. Ma così era proprio un risultato. Noi sì, però il problema non è mai copiare, eventualmente è aver sentito qualcosa. Però avevo sentito veramente poco, perché guarda, su 100 ore ascoltavo 99 ore altre cose, giuro proprio. Ma d'altronde sai, i suoni bene o male erano quelli che io sto usando dei suoni diversi da quelli canterburiani, adesso le tastiere qualche evoluzione l'hanno Esatto, no? sì non sto ma potrei usare dei timbri tipo piano elettrico che non Ma Richard Sinclair neanche lui li usava certamente sì comunque grandissimi gruppi in Italia, c'è Dave Stewart che è un tastierista immenso, però non è nel mio DNA, nelle mie cose. Bene, io sto continuando a prendere appunti perché si parlano sempre cose nuove, sempre la cosa con che volevo nuovi, dire se posso, prego Ricco. Per la continuità tra i vecchi Quana e i nuovi Quana, io sono per la continuità tra i vecchi Quana Parker e i Quanah Parker nuove, cioè quelli di adesso, è che sono grato a tutti questi musicisti, appunto a Giuseppe, a Betty, Giovanni e Paolo, che appunto suonano questa musica con me e mi danno molta gioia, e quindi abbiamo fatto un bel lavoro insieme, sono molto contento di questo, e lo spirito di Quanah c'è tutto, quindi le sono grato a tutti e grazie Giovanni, quindi così. Questo è. Bene. C'è lo spirito del gruppo, ecco qua, nel proprio della, allora, creazione del gruppo. Riccardo, facciamo ascoltare ancora un altro pezzo dall'album Quanah, appunto, che vede protagonisti Quanah Parker. Questa volta parliamo di Sailor Song. Prima lo facciamo ascoltare, poi lo commentiamo, come abbiamo fatto sin qui con gli altri pezzi. Qui a Blu Radio Veneto. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Questa canzone, queste musicalità dei Quanah Parker sono proprio all'interno dei nostri studi qui a Blu Radio Veneto. Sailor Song, ci siamo ascoltati da disco. Sailor Song che parla del viaggio di un marinaio verso un'isola che non c'è, Rick, permettimi, sì, un'isola sì, che si sta continuamente cercando dentro noi stessi in questo caso. Esattamente, proprio il testo proprio sta a significare questa cosa qui. La continua ricerca di qualcosa che magari non c'è, però dà un senso alla nostra vita, diciamo, in qualche modo, no? E anche se arrivi su quest'isola che non c'è, è arrivato là, raccogli la sabbia che c'è e ti scivola tra le dita, però sei arrivato su quell'isola, insomma. Il significato di questo pezzo, appunto, è questo qui. Tu parlavi del... Io assieme a Riccardo, mentre il pezzo andava, parlavamo del folk, e caro Vanuccio e caro Flavio, Sailor, il marinaio, è sempre stato il fulcro del folk inglese, è sempre stato il protagonista del folk, il marinaio. Sì, però le influenze di questo pezzo, appunto, vanno cercate nella musica folk, in particolare quella scozzese. Io sono un grande appassionato di musica celtica, in particolare dell'arpa, e magari non ci crederete, ma molti pezzi miei nascono proprio da questa influenza dell'arpa celtica, in particolare questo brano con le sue atmosfere, con i suoi pedali al basso. E avevo anche un programma radiofonico, mi ricordo, sulla musica celtica. È un nostro collega, praticamente. Ai tempi. Sì. E in più qui c'è anche, ovviamente, come componente strettamente progressiva, l'alternanza di tempi strani, diciamo così, di tempi dispari molto complessi, 13 ottavi, 11 ottavi, alternati al 4 quarti. Insomma, c'è un certo tipo di lavoro che fonde appunto questo aspetto del prog con il versante. E poi c'è la voce protagonista di Betty in questo certamente pezzo. Assolutamente, la proprio protagonista. Cioè, la musica gira intorno a Betty in questo pezzo, assolutamente. Beh, tutti, io penso che tutti questo, i brani. Particolarmente in questo pezzo, secondo me. Secondo me sì. Okay, io sì, penso che appunto un pezzo avendo una melodia cantata, cioè per stare in piedi un pezzo veramente bene deve esserci anche una melodia, no? Certo, ecco, questa è un po' la differenza fra certi grandi gruppi prog e altri magari anche più sperimentali eccetera, che però rimangono meno, secondo me, proprio perché non c'è una componente melodica forte, e in questi generi si insegnano, insomma, yes, ovviamente, chiaramente, ecco. Certo, mi sembra di aver sentito all'interno, non diciamo delle cover, ma proprio degli stili, delle influenze musicali di chi ha ascoltato attivamente anche la musica prog. Sì. Io inserirei anche all'interno di quei, diciamo, riferimenti, diciamo, di musiche anche le orme e il banco del mutuo soccorso. Sì, assolutamente. Cioè, io nella mia formazione ho, diciamo, tutti i grandi gruppi prog e grandi tastieristi, in particolare Emerson, Fratelli Innocenzi, Rick Van der Linde, anche pochi ricordano, dell'Exception, grandissimo. Esatto, grandissimo. E soprattutto Rick Wakeman, che secondo me proprio l'ho anche citato nel disco, e è quello, colui che sicuramente mi ha influenzato di più. E detto questo, sono cresciuto con gli spartiti anche delle orme e del banco, che allora esistevano, e hanno fatto parte un po' anche della mia scuola. Cioè, oltre a studiare pianoforte, normalmente mi studiavo questi spartiti, e in particolare quelli delle orme erano scritti molto bene, c'erano anche reverberi che le avevo lavorati, eccetera. E dopo ho avuto anche la fortuna di collaborare recentemente con Tony Pagliuca, tra l'altro, quindi è stata una cosa molto bella ritrovare, insomma, queste mie radici, insomma, ecco, d'accordo. Detto questo, appunto, rimane Wakeman, yes, ve lo dico molto quindi, chiaramente. Ma Wakeman, ricordiamo che Wakeman fa parte anche degli Strokes, esattamente, e poi ha fatto un miliardo di altre cose, appunto, che pochi conoscono, invece sarebbe bene conoscere. Va bene, d'accordo, e su questo ci sarebbe molto da dire. Strokes, gruppo assolutamente interessantissimo. David Cousing era il leader degli Strokes, bravissimo, straordinario. Musicista, grandi pezzi, c'è quel disco Just a Collection, sì, che è un gioiello. E anche From the Witchwood, assolutamente. Certo, certo, assolutamente. Benissimo, allora continuiamo a prendere appunti riguardo la musica, quindi sempre nomi nuovi, nomi famosi, nomi riveduti. Juana Parker qui in diretta a Blu Radio Veneto, ancora a mano agli strumenti, perché adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, Rick. Sì, questo pezzo si intitola No Time for Fears. Anche qui l'ispirazione del testo viene da Alessandro Monti, e No Time for Fears, non c'è tempo per le paure, cioè, e questo pezzo parla di come dobbiamo trovare in noi stessi la forza per superare le nostre paure. Sembra banale la cosa, ma sì, non lo è per niente. Sai, in particolar modo questa mi piace perché la canzone inizia proprio con una parola che è proprio... Radio, speak radio. So loud. Eccolo qua. Con radio. Comincia con radio. Radio. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo. Loro sono i Juana Parker con No Time for Fears qui a Blu Time Live all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto. Vado. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Live. Blue Time. Live. No, voglio dire, dopo tutte queste argomentazioni in musica, sentire la sigla che invece ci vede come sottofondo parlato, insomma, va bene, non importa. No Time for Fears, questo pezzo di Quanah Parker, dove abbiamo capito alla fine che il segreto di tutto sta nello spegnere la luce e sorridere al buio dicendo ancora una volta sono vivo. È vero, Rick? Sì, questa è una grandissima immagine poetica che ancora una volta viene da Alessandro, veramente molto bella, e va detto. Quindi vi ho già detto, insomma, qui c'è una componente legata al testo, superare le nostre paure. È un pezzo, direi, molto prog, più come ritmica, assolutamente prog, proprio, proprio l'immagine, uno dei pezzi vostra più questo, prog, esattamente il pezzo più prog, secondo me, assolutamente sì. Insieme domanda... anche a Quana Parker, sì, probabilmente sì. Una domanda che ti faccio, Rick, sì. Nel panorama prog è difficile sentire una voce femminile, di solito è sempre proprietà dei maschi il prog, o no? Sì, però ci sono degli esempi importanti. Uno sono i Renaissance, ad esempio. Il Renaissance, che prima avevano una cantante di cui non mi ricordo il nome, poi hanno avuto Henny Haslam. Sì, sì. Poi c'è Sonia Cristina, se vi ricordate. Sì, sì. E poi nel caso sono Wakeman, spesso usa le voci femminili vocalizzate. Se avete notato, in Italia c'era Jenny Sorrenti. Sì. Poi c'è Tubular Bells, in cui c'è una voce femminile. Poi c'è un pezzo, non dimentichiamo, The Great King in the Sky di Pink Floyd, che insomma è assolutamente importante. Che ancora non sappiamo quanto sia stata pagata. Esatto, sì. Esattamente. E poi ci sono i pezzi, appunto, anche canterburiani con delle cantanti femminili che citavate voi prima. Quindi non vedrei come una cosa così insolita, no, insolita che non ci possa stare, anzi ci sta bene nel nostro caso, poi grazie anche alle doti e all'espressività di Betty, secondo noi è un'arma vincente. E molte recensioni che abbiamo avuto per questo disco hanno appunto posto l'accento sulla bontà di questa scelta della voce femminile di Betty in particolare. Tu hai citato i Renaissance, finalmente dopo tanti anni qualcuno cita i Renaissance, che era un gruppo purtroppo dimenticato, assolutamente dimenticato, a torto, era un grandissimo gruppo. Però io mi ricordo quel disco, i primi due mi pare erano due capolavori, assolutamente erano due capolavori quei dischi là, sì. E poi ricordiamo anche con un altro grande tastierista, John Hawken, mi ricordo, sì. John Hawken. Poi sono diventati famosi al grande pubblico tramite anche un live, un doppio live, sì, il live a Carnegie Hall, mi sembra, verissimo, sì. Qualche tempo fa, poi non l'ho più seguiti tanto, però vi dico, appunto, questi ascolti che ho avuto da ragazzino, anche pochi, però mi hanno assolutamente lasciato un'influenza molto importante. Erano stati fondati, sì, da un ex Yardbirds, sì, esattamente, sì, sì, sì. C'era Jane Ralph, era la cantante, sorella di Kate Ralph, se non sbaglio. Quindi, sì. Poi c'è un disco incantevole con la voce femminile, pochi se lo ricordano, gli Exception, dopo sono stati sciolti, sono continuati come Trace, con Rick Van Der Linde, hanno fatto tre dischi straordinari, di cui uno è appunto The White Ladies, con una voce femminile che usa spesso anche i vocalizzi, e mi ha colpito molto quel disco. Bene, Rick, sei riuscito a smontare quello che ho appena detto, nel senso che non è solamente maschile. E non volevo, cioè io ti parlo, io so poi che chiaramente, ecco, nel nostro caso, poi ti dico, c'è un'altra cosa importante. È vero, la maggior parte, come hai detto tu, assolutamente sono voci maschili, niente da dire, grandissimi cantanti, interpreti. E nel nostro caso, se non c'è l'influenza Yes, sapete che John Anderson degli Yes, appunto, ha un timbro molto particolare, molto acuto. Se volete, ritorna anche in questa scelta femminile, della voce femminile, si ritrova in questo modo qua. A me piace la voce che spicca, che è bella alta, che vola. Anche se Betty ha parlato di un altro riferimento maschile, però, mentre andava al pezzo. Vabbè, ma dopo ne parliamo dopo. Ok, ne parliamo. Manuccio, volevi un intervento? Volevo forse tornare un attimino, a fare un passo indietro a quello che diceva prima Maurizio, che era quello che forse adesso spicca di più la voce maschile nel prog, cioè i nuovi gruppi di prog tendono ad avere delle voci maschili. In effetti negli anni 70 era quasi più comune avere una voce femminile. Vuoi per tutto il folk rock inglese, parlavamo prima, Pentangles, Still I Spend, tutti i vari gruppi che avevano delle voci strepitose femminili. Non solo, non so se alcuni di voi ricordano un gruppo svedese, erano i Samla Mamma Smanna, e anche loro erano praticamente la versione, diciamo, svedese dei Pentangles, oppure i Nostradamus greci, che avevano Despina Glisiou, che era una cantante assolutamente strepitosa, ed erano appunto questi gruppi un po' particolari che facevano le stesse sonorità folk che venivano dall'Inghilterra. Forse un po' meno gli italiani, a parte Jenny Sorrenti citata, sì, sì, non c'era moltissimo, però l'Inghilterra effettivamente è stata maestra in tutto ciò. Assolutamente, concordo. Beh, pienamente. Allora continuiamo con la musica all'interno di Blue Time Live, ancora un brano dei Quanah Parker, questa volta proprio il titolo dell'album. My request, take your voices on your wings and bring sensations. I feel a new light in me. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Siamo ascoltati questa lunga suite, Quana Parker è il titolo della canzone, della musica che ci siamo ascoltati, e Quana Parker sono anche loro i protagonisti di questa sera. Allora, come si diceva in principio parlando con Rick, Quana Parker suonava bene, ma era anche un capo, uno degli ultimi capi dei Pelle Rossa, e fa un certo effetto quando Betty grida "Where is my axe?", ovvero dov'è la mia accetta? Forse voleva far fuori qualcuno, Rick. Eh sì, voleva far fuori la new wave che c'era all'epoca. E l'idea era quella, devo dirlo molto sinceramente. Ah, quindi niente. O perlomeno quello che io conoscevo della new wave, ecco. Cioè, io dopo aver ascoltato grandi gruppi, vi ripeto, Genesis, Yes, bla bla bla, eccetera, quello che sentivo anche i Police, lo dico molto sinceramente, non mi davano nulla, ecco. E quando la new wave è diventata dance, ancora peggio, capite? E i risultati si vedono forse adesso con la musica che circola ora da 3 minuti. Però Stewart Copeland veniva dai Carvedea. Va bene, d'accordo, però pur essendo stato un rivoluzionario della batteria, non è né Palmer né Bill Bruford, a mio modo di vedere. Quindi, però è un giudizio lapidario, proprio, c'è quello da fare. Sono un prog duro proprio, hard prog. Benissimo, allora ringraziamo ancora Riccardo Scivale alle tastiere, poi ancora Betty Montino alla voce, Giovanni Pirrotta, chitarre elettriche, Giuseppe Di Stefano, basso elettrico, Paolo Ongars Ongaro alla batteria. Ma il gruppo di Quana Parker non si ferma solo ai musicisti, Rick, ci sono molti altri collaboratori che danno luogo a questo disco. Sì, dunque, a parte che volevo anche ringraziare un attimo il nostro alternate drummer, quando Paolo purtroppo non può per motivi di lavoro, abbiamo un altro collaboratore che si chiama Massimiliano Conti, che appunto ha fatto qualche concerto con noi. Detto questo, la continuità fra i vecchi Quana Parker e quelli attuali è rappresentata proprio da Alessandro Monti, che dopo tanti anni appunto è venuto a sentirci suonare un concerto, mi ricordo, ed è rimasto molto colpito e ha voluto coprodurre appunto questo disco, questo Quana, che è frutto anche molto del suo entusiasmo. Dobbiamo moltissimo ad Alessandro, lo dico qua e lo dirò sempre, e l'entusiasmo che sta anche continuando a darci tramite la sua etichetta anche Diplodisc, che sta cercando di appunto promuovere certe realtà buone, insomma direi buone, molto importante appunto questo aver ritrovato questo vecchio amico, questo vecchio Quana, che ora è un Quana a tutti gli effetti, anche attuale. In più il disco è stato inciso, direi, molto bene in un'unica sessione dal vivo, tra l'altro in un pomeriggio, mi ricordo, allo Home Electrico Studios di Porta Santa Margherita Carle, Venezia, da Roberto Riosa, e ha fatto un eccellente lavoro anche lui. Poi è stato fatto un remastering da Alessandro e da Riccardo Zorzi. E in più c'è un'altra persona che voglio ringraziare oggi moltissimo, ed è qui con noi in studio e ci sta aiutando appunto a poter suonare dal vivo dal punto di vista della qualità sonora dell'amplificazione, un grandissimo fonico, ed è Giuseppe Bonotto, che è una figura storica, vorrei dire, del rock italiano, e non solo è stato fonico delle Orme per tutta la loro carriera, se non ho capito male, ma ha fatto tante altre cose, progettazione di studi, tante cose importanti, grandissimo. Grazie Giuseppe per averci aiutato oggi. Il mio tecnico di fiducia. Veramente lo ringraziamo tutti moltissimo. E noi lo ringraziamo perché ci ha dato una validissima mano al fine dell'emissione corretta della musica di Quana Parker. Allora, ancora un pezzo dal vivo, Quana. Sleep. Lo cominciamo subito? Sì, cominciamolo. Benissimo, allora qui. Questo è un altro di quei pezzi che sono nati per piano e voce da me e Alessandro, e che poi sono stati sviluppati coi Quana attuali, rielaborati e ampliati. Benissimo, allora spazio ancora ai Quana Parker per quest'altro pezzo che si intitola Asleep. Didn't realize that I fell asleep. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. All'interno dei Blu Time Live abbiamo i Quana Parker qui in diretta per farci ascoltare anche dei pezzi in versione proprio live, qui presenti con i loro strumenti musicali, anche per condividere parti del disco Quana che ci stanno presentando. Allora, questo pezzo Asleep è praticamente il racconto di un sogno bellissimo che in pochissimi si possono permettere, forse nessuno a dire il vero, quello di stare in una piccola casa su una nuvola, quindi lontana da tutti i pensieri. Riccardo, come ti è nato questo testo? Allora, anche questo sì. È un testo che è nato insieme ad Alessandro, un'immagine poetica sua. E niente, è un'evasione un attimo da tutto, ecco, fa parte un po' di quel filone di testi dei Quana che trattano un po' dell'evasione da una realtà che può essere non piacevole, poteva essere anche appunto la realtà industriale di Mestre in quel periodo, l'alienazione anche dei rapporti umani eccetera, quindi questa immagine, se volete, una nuvoletta alla Roger Dean, una nuvola dove ci può essere una casa dove io e te possiamo vivere e giù c'è, vedi, la pace, il canto degli uccelli, è un'immagine sempre legata alla natura, è molto importante. Metti caso, Riccardo ha citato Roger Dean, che il cordone ombelicale con gli S continua, non assolutamente, c'è niente da fare. Non c'entra da fare. Il pittore di tutti i dischi degli S. Tu vedi una copertina come Class to the Edge, quella lì, almeno per lo me, perlomeno a me, insomma, hanno colpito molto queste cose, non penso solo a me. Riccardo, ora che stiamo imparando qualcosa di più di Quana Parker, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori come fare per entrare in possesso del CD. Sì, dunque, il CD è distribuito da Vannuccio Zanella, dalla MP, correggimi. Ce l'abbiamo meglio. Qua Vannuccio, Sì, ce l'abbiamo, passo la palla a Vannuccio, assolutamente. Okay. Ho sbagliato. La parte commerciale la faccio io. Allora, il CD è disponibile sul sito della GT Music in questo caso, che è la distributrice, diciamo, per quanto riguarda il CD di Quana Parker e per altri vari titoli della Diplodisc di Alessandro Monti, e si trova al sito www.gtmusic.it. Ecco, è stato meglio così, giustamente. E noi siamo anche grati a Vannuccio appunto per questo suo interessamento nel nostro prodotto e sta lavorando molto bene in questo senso, assolutamente. E poi c'è anche un sito internet da ricordare per avere ancora maggiori informazioni riguardo il gruppo. Certamente, appunto, è www.quanaparker.it. E lì potete trovare molti materiali, anche dei video di concerti e molte cose, anche molti pezzi di Quana pubblicati a stampa, vedete anche delle immagini di queste cose, perché sì, questo penso siamo l'unico gruppo prog italiano che ha degli spartiti delle proprie composizioni pubblicate negli Stati Uniti, in quanto appunto io ho lavorato tanti anni per editori statunitensi e ho avuto l'onore che molti brani e molti anche arrangiamenti di pezzi che ho fatto per i Quana Parker in versione per piano solo sono stati pubblicati, ad esempio abbiamo pubblicato South Side of the Sky degli Yes, Merlino il Mago di Wakeman e tanti pezzi di Quana, fra cui di questo disco c'è Flight, c'è After Rain e c'è Chant of the Seahorse, che è il primo pezzo del CD. Bene, hai nominato Flight in questo momento, è giunto anche il momento di ascoltarlo qui in versione da disco. Tra l'altro, una cosa importante volevo dirla, per Chant of the Seahorse ho ricevuto una lettera da Dick Hyman, non so se sapete, Dick Hyman è stato uno dei primissimi, un grande pianista jazz, uno dei primissimi a fare un disco di Moog nel 68, che ha avuto un grande successo, c'è un pezzo di Minotaur che ha influenzato anche Emerson. Ancora prima del Guardiano del Faro. Esattamente. E Hyman per questo brano, siccome lavorava per le riviste, perché lavoravo anch'io, mi ha mandato una lettera di apprezzamento proprio per questo Chant of the Seahorse. Flight invece nasce da suggestioni anche del jazz rock e altre che poi eventualmente ve le dico. Allora ce l'ascoltiamo qui a Blu Radio Veneto. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E ci siamo ascoltati questo bellissimo pezzo, si intitola Flight. I protagonisti di questa serata sono i Quana Parker, l'album che stiamo presentando è Quana. Quindi, come diceva prima Riccardo Civales, questo pezzo non dico che si allontana un attimino dal tema del prog, ma è molto più jazz. Sì, infatti, questo pezzo nasce da questa suggestione, questo era il modo in cui lavoravo. Stavo studiando un pezzo So What di Miles Davis, che è un po' un prototipo di certi pezzi modali, no? Come Impressions di Coltrane. E in più mi piace molto Chick Corea, mi piaceva un pezzo che si chiama Senior Mouse. Allora, cosa ho fatto? Ho mescolato il giro armonico di So What con un adattamento dell'ostinato della mano sinistra di Senior Mouse di Chick Corea, portato però in sette quarti e poi in cinque, eccetera. E questa appunto è la genesi di questo brano, appunto prog vive di queste commistioni, assolutamente. Benissimo, allora. E ricordo che siamo anche su Facebook per chi volesse, ovviamente. Sì. Benissimo, quindi per diventare amico di Quana Parker come si fa? Si cerca Quana Parker finché viene fuori la nostra immagine con l'unicorno col pelle rosso a cavallo, che è stato appunto disegnato da Betty, Betty Montino, la nostra cantante, che ricordo ha fatto la bellissima grafica dell'autrice della bellissima grafica del disco Quana. Diplo Disc DPL 004. Benissimo, allora l'ha imparata a memoria questa sigla. Allora ci ascoltiamo un altro pezzo dal vivo, in questo caso People in Sorrow. People in Sorrow, vuoi fare una breve presentazione, Riccardo? No, anche no, lo suoniamo. Benissimo, allora qui a Blu Radio Veneto ci sono i Quana Parker. Blu Radio Veneto. Svolta. Di festa in festa. Gli appuntamenti in Veneto. Gli appuntamenti in Veneto. Spettacoli, mostre, sagre ed eventi in Veneto. Alle 12.05 da lunedì a venerdì, in replica alle 17.05 e anche in podcast. Di festa in festa. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Prima di andare con la breve pubblicità ci siamo ascoltati un pezzo in diretta qui in versione acustica live, sono i Quanah Parker con People in Sorrow, e questo testo parla anche della solitudine di molte persone, in questo caso di un ragazzo e di una ragazza, però c'è sempre la speranza con cui si può vivere, vero Rick? Eh beh sì, se manca quella diciamo che è una componente molto importante, certo. E bisogna darsela, no, noi abbiamo un'altra vivissima speranza, quella di riavervi qui con noi in diretta studio, anche perché so che sta bollendo qualcosa di nuovo in pentola. Beh, innanzitutto vi ringraziamo, la cosa ci onora, ci fa molto piacere, e grazie veramente per questa trasmissione, questa vostra ospitalità magnifica. Sì, sta bollendo in pentola un secondo CD, i materiali sono già pronti, basterà andarli a incidere appena possibile, che penso uscirà per l'inizio dell'anno prossimo. E poi abbiamo anche del materiale d'archivio dei vecchi Quanah che è degno di pubblicazione, e non diciamo niente per scaramanzia. Bene, allora ringraziamo i Quanah Parker, ringraziamo Riccardo Scivales, Betty Montino, Giovanni Pirrotta, Giuseppe Di Stefano, Paolo Ongaro che sì, ci hanno fatto compagnia, poi ancora Giuseppe Bonotto che Bonotto, ci ha aiutato, giusto? Veramente grazie tantissimo. Mille, veramente senza di lui non sarebbe stata possibile suonare tutti insieme, pulita, sì, così. Ecco. Benissimo. E Alessandro Monti. Bene, Alessandro Monti che è qui con noi, poi una brevissima do la linea a Vannuccio, eccolo qua. Allora, ringrazio anch'io perché ovviamente l'ospitalità di Blu Radio Veneto è sempre squisita. Volevo anch'io ringraziare una persona che è qua con noi, è stata qua con noi in regia, che è Nino Destra, che poi è l'effettivo, diciamo, distributore e il titolare della GT Music, che distribuisce la Diplo Disc di Alessandro Monti. Comunque grazie ai Quanah Parker, perché sono stati assolutamente bravissimi questa sera. Anche a lui il nostro ringraziamento, anche a Nino Destra. Benissimo, allora grazie, questo spazio di ringraziamenti ci voleva proprio. Allora diamo l'appuntamento ai Quanah Parker un prossimo episodio che vede protagonista sempre la musica Quanah, e quindi noi abbiamo detto tutto. Se Rick vuole un brevissimo cappello sul pezzo che andiamo ad ascoltare adesso, che è The Garden... The Garden Awakes, sì, sì. Questo anche qui l'ispirazione poetica viene da Monti, da Alessandro Monti, e un'immagine appunto di fusione con la natura quando il giardino si risveglia in primavera e fiorisce, e si può stare appunto anche in questo giardino, osservare la natura, vederla risvegliarsi, e sta a simboleggiare ovviamente un risveglio interiore in noi stessi, e questo è un tema carissimo tra l'altro a Anderson degli Yes ovviamente, e quindi appunto c'è questa similitudine fra la natura e il nostro spazio interno. Benissimo, ricordo che dopo di noi ci sarà Alberto Prisco con Rock Wave, questa sera con la classifica. Ringraziamo ancora una volta i Quanah Parker, ancora per la collaborazione Vannuccio Zanetti, per la direzione artistica Alberto Prisco, quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara è proprio tutto, e quindi buona continuazione di programmi di Blu Radio Veneto, e grazie ancora ai Quanah Parker. Grazie ragazzi, buonanotte. Grazie Blu Radio Veneto, grazie a tutti. Rock Wave. sunshine.